Ridevas. Ciao Cla, e noi come andiamo? Come ti faccio ridere? Andiamo bene. Ascolta me, ma come non accendere la tastiera nel computer? Perché l'ho aperto per fare una pulizia, nel senso togliere un po' di polvere, eccetera. L'ho attaccato, adesso non accendo la tastiera, come sta stessa? L'hai attaccata al computer già acceso? No, al computer spento. L'hai aperto per pulirlo, ma prova a riavviarlo semplicemente così. L'ho avviato già 4 volte, no, e mi ha detto a prendere mano di questo. Se il computer è da buttare a mare, non si conosce tutto il sistema di preamplificazione audio eccetera, smontato tutto per pulirlo e c'era un po' di polvere e ne ho approfittato per aprire il computer e già ne ho tolto polvere, è stato fuori un po' giorno tutto soffiato senza attaccare i cavi né niente, solo quelli di dietro, capito? E niente, non c'è più la tastiera, allucinante. Ora, togli lo spinotto della tastiera, guardaci dentro, alle volte non si sia piegato un piedino nel rimetterla a posto dentro e quindi non va più. Prova a controllare il connettore proprio. Inforca gli occhiali. Inforca gli occhiali ovviamente. Becca! Io devo andare sotto la scrivania, non è un gioco qua. No, non accende, no? No, se gli muove, è già attaccato tutti i vini. Non ho capito io. Ascolta, ma il connettore della tastiera, cioè il computer si è avviato, no? La tastiera non la sta riconoscendo. Quindi controlla lo spinottino della tastiera se per caso prima, avendolo staccato, quando l'hai rimessa dentro, mi passi che non l'abbia pizzicata la femmina giusta e quindi il piedino l'abbia piegato. Ma se non sono ancora qua nel connettore. Adesso sto guardando impostazioni, il pannello di controllo, e c'è vedere. Vabbè, come la situazione qua. La tastiera l'avevi staccata fisicamente dal computer? Sì, al computer spento, ho staccato tutto. Ma tu già l'hai rimessa nel suo posto, giusto? Nel connettore viola? Nel connettore viola? Ma fai nero il connettore viola? Ma no, ho perso un filo. Ma può essere. Il filo del discorso ho perso. Allora, solitamente la tastiera nel retro del computer, se è un computer recente, è il connettore è viola, mentre quello del mouse è verde. Te lo stavo dicendo semplicemente, siccome sono uguali, potresti casomai aver infilato uno al posto dell'altro. Nulla, ho capito. Oi, buon cloud. È stato carica? Aspetta che lo sotto, così hai detto? Hai già stato carica? No, è attivo, ancora no. Com'è questa modulazione? Bella piena. Bella piena. Bene. Sto usando, guarda, un baracchino, sarà degli anni 70 con la Salenta Plus. Il microfono di tavola. Aspetta che attacchiamo, dovrei avere anche il bip. Bellino. Certo, il segnale non è il tuo, perché chiaramente se è un altro apparato, però no, le batte sono 4, mi pare 4,5, una cosa del genere, però vedo che la radio spinge. Hai voglia, si sente molto bene. In termini di segnale, con 4 watt sta arrivando una portante di 9,15, modulato arriva ai 20. Allora già va bene, No, non c'è niente qua assolutamente, tutto sotto controllo. Ma riesco a farla accendere sta cosa? No. Non riesco a farla accendere K. E allora avrei mandato in corto la seriale. La porta USB. Ma la protezione l'hai attaccata alla porta USB? E lì è attaccata dietro, allora. Ah, pensavo al connettore standard, quello rotondo per intenderci. Oh no, c'è un connettore USB, l'ho attaccata dietro. Li ho provati tutte le porte USB. Non accende, non accende. Tanti non ce n'è qua nella tastiera da toccare, no? No, penso proprio di no. Se sta il computer acceso, quando lo attacchi, riesci a vedere per caso qualcosa di particolare nel monitor, cioè l'avviso è stata collegata periferica ed è pronta all'uso? No, non vedo assolutamente niente. Impostazioni, pannello di controllo. Vediamo sul pannello di controllo cosa mi dà. Pannello di controllo, tastiera, dove c'è? Tastiera, eccola qua. Tastiera. Non tasta nulla detto. Apri, vediamo. Cosa è successo? Fare il click nella tastiera. È morta la tastiera. Mettete il cursore, non è che non è la tastiera. No, proprietà, velocità, tastiera. Ok, nulla, no, hai da prendermi una di queste. Oi, Max, il buon Claudio è riuscito a dare una martellata alla tastiera. Allora ne piace che ti compiuta fra poco, ma appunto le manicomio, proprio più lontano del coso, guarda. Mi sono rotto le palle, veramente. Ogni giorno, piatto ne ha un. Vediamo qua. Cos'è? Questo lo togliamo. Questo è tutto a posto. Niente. A prendere le gomme le vostre madre. Maiusco. Niente, minusco. Niente. Allora, qui abbiamo paura. Faccio volare dalla finestra. Ok. Per carità. No, ma poi ragionandoci, se ti sei limitato semplicemente a pulire il computer e a ricollegare così com'è, evidentemente non hai fatto operazioni né di disinstallazione né chissà che, per cui forse il danno è stato fatto dentro. No, non ho toccato niente, sono tu io. Non sono abituato a mettere le mani dove non mi compete, capito? Proprio non ho toccato assolutamente niente, nix. Quando dai corrente al computer, dopo aver staccato anche proprio l'alimentazione, proprio staccato fisicamente il filo, tu ridai corrente e accendi, non compare neanche un lampeggio per un attimo nella tastiera? No, oh, la luce non si accende dalla tastiera, quindi automaticamente non va in funzione, capito? Non si accende la luce della tastiera. Ma l'ho staccato, la luce della tastiera era accesa, quindi boh. Capito. Ma ragazzi, mi hanno chiamato per fare carica. Se ci siete dopo, molto volentieri, quattro chiacchiere le scambio con voi. Ma signora, ci sei più tardi? Vogliamo essere incasinato col bambino. Io non te lo assicuro, non lo so. Non lo so, mi sto abituando a guardarmi la TV la sera e niente, sto entrando pochissimo e proprio. Ho sentito a te, sono entrato adesso perché sono tutta la sera in quell'X. e ti ho sentito, mi sono permesso di farti questo interrogativo. Adesso controllo, cambierò le porte, USB, vediamo. Devi accendere perché mi serve, devo scrivere, c'ho cose da fare. Dai, saluto, buonasera, buon tutto, grazie dell'info e ci aggiorniamo, vai, ciao ciao. Ok, dai, ci sentiamo tra una mezz'oretta, 40 minuti, sono di nuovo in radio. Lascia acceso così rimane un po' a scaldare. Allora, ci sentiamo dopo se coincide. Ciao, saluto, grazie. Va bene, dai, certo. Ciao, ciao, Claudio. Se mi ascolta, sono Maramogolo comunque. Ma da 10 anni? Sì, io, io. Quindi da molto ripreso Gianlu, per cosa non ti stavo più vedendo in giro? No, la sarà il mio commesso. Se per la stessa ditta sì. No, no, ragazzi, guarda. Ah, vabbè. Ma sarà lo stesso che controlla lì la cabina. La cabina dove c'è il fornitore lì. No, no, relativa. Ma no, ho capito che stai dicendo, no? È alto, grosso. No, no, no, ho capito, non è quella. No? Cava, cava. Mi chiede se vuole occupare a me. Quella è il vigile, si chiama. Il vigile? Quella lì, sì. La tua? Il girato a Sardegna. Di Polo Torrese? Fa servizio, ha preso servizio qua. Da tutte le parti, tutta la regione, c'è. Quindi ti posso anche trasferire, volendo. No, ragazzi, voi sono a Sebastiani. Ah? Caffagà. Non la conoscevo questa vigilanza Sardegna, però io avevo fatto la domanda in tutti gli istituti, tutti qua. Ehi, lavora più grosso che c'è, avrà più di 11.000 volumi. Ma bisogna avere incuzzi. Se non c'è incuzzi, non ci riesci. Vabbè, la vada di bene, io. Io volendo ce l'avrei avuta, però la persona a cui ho chiesto mi ha detto che non poteva fare nulla perché le armi lunghe stava andando alla prefettura il permesso. Pesate voi. Io prendate. Cucci la pompa, queste armi. Secondo il servizio. Secondo il servizio si porta avanti la veluta. Cappaga. Vabbè. Comunque com'è? La notte sta facendo, no? No, è tornato alle 11. Allora, che sera. Domani a che ora riprendi? E domani adesso vediamo, ci devo chiamare. E dopo ci vanno le disposizioni. Sarà il pomeriggio, sarà la mattina. Ma non è che avete un turno settimanale, dire per dire una settimana qua, una settimana là, vi cambiano loro, va? Ho capito. Avanti, a chi tocca? A questo pomolino c'era. Non lo so. Ma ti senti anche bene, ma quanti watt stai usando? Oh, c'è più di che vuoi già. Con la tua camionata. E la cantuella, 2Z. Arrivo. Spento. Ma io ti sento abbastanza bene, per essere lì ti sento bene. E io sono messo solo la mattina fino a così, in direzione. Cappaga, vado qui io, per purtroppo sono aperto, va. Come mi ascolti? Claudio? Ciao Salvatore, mi hai sentito, chi sei? Ciao Salvatore, Luca, ho fatto so se ha fatto ben sentito, oggi un'entrata di in quarta è fatto. Scusami, ma pensavo non ci fosse nessuno, perché io la radio accesa, l'avevo lasciata accesa perché ho visto che se non scalda un pochettino non, poi si modula male. Quindi il tempo di sedermi, non ho sentito niente, ho detto perché chiamo Claudio che l'ho sentito prima di fare carica io, vediamo se in QRX se mi ascolta, quindi chiedo perdono a tutti. Vai a Archimede. Avanti Archimede. Sì, buonasera a tutti. Scusami, Tore, per prima, ma tra il telefono, poi era pronto a mangiarmi sotto sedere e me ne sono dimenticato. Sì, figurati, non c'è problema. Mi sono seduto or ora. E quello che ti volevo dire, ci vediamo le sigle, poi ti dico. Rilancio a Gianni, che se no ci sente parlare e ci vanno a quel paese. Vi percepito che c'era gente. KK, non è da te Salvatore, le conosco le persone oramai. Andare, come ben sentito anche a Massimiliano, lo rilascio tutto il microfono e fai girare, vai. Ehi, Gianni, no, stavo dicendo, se non vi offendete faccio un attimino questa greca su un altro canale, così ci scambiamo due cose e poi ritorniamo. Se a te ti va bene, Salvatore. Sì, capo, dai, sì, che così se no monopolizziamo un attimo e annoiamo gli altri e poi ci ritorniamo qua sul 10. Dai, va bene. Cioè, ci scusate un attimo, gli do delle informazioni e ricevo delle informazioni da Massimiliano. E per quale motivo ci dobbiamo offrire Massimiliano? Andate pure, buona questa greca, traetene vantaggio. Ehi, va bene, dai, fai leggero, Salvatore. E cappa, ok, già dopo, ciao lui. Cappa, ciao dopo, Salvatore. Chi è rimasto? Gianluca. Ciao, Massimiliano, ancora, Salvatore, con Salvatore. Sì. Tu Salvatore, tutto ora, come vedi? E almeno ti passi il tempo. E cosa devi fare di controllare che cosa? Ho già lui. Adesso passo la pausa, lo sto aspettando la disposizione. Non ho capito. Ma mica si è alzato, tu immaginati consegnando i cisti in mano, consegnandoli, il vento te resta saltato con la carta fina trasparente che c'è, se non sei attento ti si fascia di tutto. Di quelli sfusi praticamente fatti da noi ne sto consegnando pochi, sto consegnando più quelli confezionati. Quelli già, ho capito, da quelli che hai portato voi già pronti. Ehi, a quelli che sono dentro il cartone, dai. Sono dentro il cartone, a mano quelli non si rovina. Allora, adesso lo so, sono i materiali di quelli della cucca, della cucca, i cerchi che stanno facendo già. Ma tu vedi la roba che c'è dentro a tutti i soldi? Dove, da? La cucca. Vedi che la porta la cucca, adesso mi risulta un po' tutto, ragazzi. Voglio vedere i cerchi, ho fatto tutti i cerchi con 20 Ovvero? Ho capito, con la società di ex tossicodipendenti, una comunità là. Fanno loro delle cose lì, fanno gli animali, hanno tutto, vendono anche la carne, di tutto. Allora, c'hanno anche un po' di vendita, qua sono qua, ho visto che hanno anche la mutazione di Parigi. Io ce l'abbiamo fatta, non so che cosa c'è in piazza. In piazza questo numero che aveva perso un buon rapporto negli ultimi punti di vendita, poi non aveva la possibilità di farlo. Ti conviene quando sei lì portarti la canna? No, non mi piace a me. No? Sì, devi fumare da fabbrica viziata, non lo sai. Boh, un punto durese dovrebbe già piccare. Ah, Giudito, un punto durese dovrebbe già piccare. A me mi rilascia molto, la verità. E qua meglio è dove ho trovato lavoro piuttosto che l'altra ditta. Dico, è meglio questa ditta che l'altra? Guarda, è meglio questo lavoro, questo lavoro, questo lavoro. Ma questo lavoro è proprio meglio, lo so, non è un certo. Sono equivalenti. Gianluca, io mi sto addormentando, ti saluto, ti auguro buon rientro a casa e buonanotte. Buonanotte a tutti gli ascoltoni, corriti per me, ciao ciao.